Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Una buona giornata, gentili ascoltatori, ben ritrovati. Nessun luogo è lontano, anche quest'oggi la grande attualità internazionale sarà in primo piano. I saluti vi vengono anche da Mira Lucchetti, Massimo Brugnone in redazione, Fabio Cantadori alla parte tecnica. Le coordinate per interagire con noi ormai le conoscete, la mail nessunluogo@radio24.it, domande e commenti in pochi caratteri via sms a 349-238-6666 e poi invece commenti su Facebook a nessunluogo@radio24, infine potete cinguettare su Twitter nessunluogo24. L'avete sentito dal GR con Alberto Negri in diretta da Aleppo, lì la rivolta continua, il braccio di ferro tra Assad e i ribelli continua. Noi invece ci spostiamo in un altro luogo dove la rivoluzione e la primavera araba sta dispiegando i suoi primi frutti politici. Andiamo a Tripoli. In Libia, dove l'Assemblea Nazionale ha appena eletto Mohamed Magariev come nuovo presidente, leader del Fronte Nazionale, un partito filo-islamico, 72 anni, storico oppositore di Gheddafi in esilio quando il Rais reggeva le sorti del paese. Cerchiamo meglio di capire chi è questo personaggio e a che punto è la transizione complicata, complessa, transizione libica. Il mio buongiorno va a Farid Adli, giornalista, esperto di questioni libiche, collabora fra l'altro con il Corriere della Sera. Farid, buongiorno. Buongiorno anche a voi, buongiorno ai nostri ascoltatori. Si aprono grandi sfide per la Libia, prima fra tutte la sicurezza, perché lo sappiamo, ancora un sacco di milizie sono nel paese, hanno le armi in pugno, soprattutto nelle zone del sud, poi c'è l'economia, ma partiamo da questa nomina, da questa elezione. Sì, chi è Mohamed Magariev? Partiamo dalla parte piena del bicchiere, cioè partiamo dal fatto che c'è stato per la prima volta in un paese arabo un passaggio dei poteri in un modo pacifico tra l'ex Consiglio Nazionale Transitorio e il nuovo, la nuova Consiglio Costituente eletto. Penso che questo dato sia quello prevalente rispetto a tutti gli altri. È vero che lo è stato riconosciuto anche nella seduta di ieri, l'altro del Consiglio Nazionale Transitorio, dove c'è stata la consegna da parte del Presidente Jalil, la questione della sicurezza, la questione dell'economia, la questione riconciliazione nazionale, sono le questioni grandi del futuro della Libia, della ricostruzione del paese, ma il dato importante è che si è avviato un processo democratico in elezioni assolutamente libere, dove c'è stata una affluenza alle urne fortissima e soprattutto c'è stato questo passaggio dei poteri senza esitazioni. Chi è il presidente Magariev? Si vuole nella stampa occidentale utilizzare delle categorie diciamo nostre, permettetemi questo di dirlo, sì, perché sono moltissimi anni che vivo in Italia. Dire che Magariev è filo islamico è un fatto assolutamente contro la natura reale di questo uomo, della sua militanza politica, della sua opposizione al regime di Gheddafi. Magariev era un ambasciatore libico in India e poi ha dichiarato l'opposizione al regime e ha costituito il Fronte Nazionale di Salvezza Nazionale Libica, che è stata la prima opposizione armata contro il regime libico. E nel 1984 il Fronte Nazionale di Salvezza libico ha tentato un attacco contro Babel Azizia, un attacco fallito dove sono stati trucidati tutti i guerriglieri che sono penetrati nella roccaforte, nel bunker di Gheddafi, e praticamente moltissimi aderenti a questo fronte nazionale sono stati assassinati o imprigionati, poi assassinati all'interno della Libia oppure all'estero, soprattutto in Gran Bretagna. Sì. Gariev è rimasto per 20 anni in esilio, principalmente negli Stati Uniti, e il suo fronte nazionale nel 2006 ha tentato di unire l'opposizione libica molto frammentata che si trovava in esilio, ed è riuscito allora a fare la prima conferenza dell'opposizione libica a Londra e ha chiesto la rimozione di Gheddafi e l'avvio di una campagna politica tra gli esuli libici all'estero per tentare di scardinare il regime. E quando c'è stata la rivolta libica della primavera del 2011, Gariev è tornato e ha costituito un partito che si chiama il partito, cioè il Fronte Nazionale, è un partito politico, non è più un partito militare, non ha le sue milizie, sì. Ha ottenuto soltanto 3 rappresentanti nel Parlamento, 3 rappresentanti tra quelle elette direttamente dalle liste dei partiti e 9 tra gli indipendenti, quindi è un partito di minoranza. Ha convogliato sul suo nome anche i partiti islamisti, e da qui la semplificazione giornalistica di dire che è filo islamista. Ho dovuto prolungarmi per chiarire la questione e anche per far capire ai nostri ascoltatori che alcune categorie occidentali non valgono per l'analisi politica dei paesi arabi. Hai fatto benissimo a precisare e a correggermi, a precisare le mie dichiarazioni. Abbiamo fatto cenno a quelle che sono le grandi sfide della Libia. Mi sembra di poter dire che la sicurezza sia comunque la prima, perché senza sicurezza non c'è neanche un'economia che riparte. Sei d'accordo su questo? Certamente la presenza delle milizie armate è una sfida insidiosa, ma questa sfida non è una sfida strutturale, nel senso che è possibile risolverla nel momento in cui si troverà un accordo di riconciliazione nazionale da una parte, quindi un accordo politico, e dall'altra parte una soluzione economica alla presenza di queste milizie, perché queste milizie raccolgono migliaia e migliaia di giovani che sono senza lavoro e di conseguenza bisognerebbe trovare uno sbocco lavorativo a questi giovani che sono stati lasciati dal regime di Gheddafi sull'astrico malgrado il paese viva su un pozzo di petrolio. E quindi lo si è visto anche durante le elezioni, cioè queste milizie non rappresentano un pericolo per la democrazia in Libia. Sì. Non ci sono grosse contraddizioni tra le diverse realtà politiche libiche e di conseguenza io credo che nel momento in cui si insedierà un governo che ha una legittimità democratica e si troverà troverà questo governo la capacità economica e soprattutto la capacità politica di affrontare questo nodo e di risolverlo nel miglior modo possibile. Ecco, però rispetto ad esempio a spinte autonomiste che vi sono state anche nei mesi passati, mi riferisco alla Cirenaica, no? Che a un certo punto aveva addirittura minacciato, come dire, un diaframma, uno scisma, da questo punto di vista, insomma, c'è questo pericolo, lo vedi? Vedi, i dati, molte volte l'immagine giornalistica è un difetto professionale nostro, quello quando un cane morde un uomo non fa più notizia, ma quando un uomo morde il cane fa notizia. Purtroppo questa minoranza di federalisti, sì, in Libia sono una minoranza assolutamente esigua, solo che essendo una minoranza chiassosa ha fatto notizia. quel giorno in cui un gruppo di giovani, non più di 40, hanno assaltato a Bengasi l'ufficio della commissione, dell'alta commissione elettorale, e hanno incendiato i registri elettorali, quelle notizie, quelle immagini hanno fatto il giro del mondo. Il giorno dopo c'era una manifestazione di 40.000 persone che dicevano no al federalismo, vogliamo una Libia unita e vogliamo il decentramento amministrativo. Quella manifestazione grandissima non ha avuto nessuna risonanza mediatica internazionale, per cui non c'è problema di secessionismo in Libia. Sicuramente l'est della Libia e l'ovest della Libia sono molto più uniti di quanto lo siano il nord e il sud dell'Italia. Farid, non ci sono degenerazioni di questo genere. Farid, intanto al 349-238-6666 un'ascoltatrice, Carmen, dice: io non vedo molte primavere arabe, come donna vedo solo autunni arabi, com'è la condizione delle donne in Libia? Questa la preoccupazione di Carmen, come possiamo rispondere? Vorrei fare solo un paragone tra il Parlamento italiano e il Parlamento libico. Nel Parlamento italiano ci sono meno di 17% di donne all'interno del Parlamento. In Libia ci sono praticamente 18,5% di donne nel Parlamento. Credo che questo è un dato di fatto che dimostra in qualche modo che la donna in Libia ha conquistato dei diritti molto forti, che ci sono delle donne che si battono per i loro diritti. Sì. I diritti non si donano, i diritti si prendono, e finché ci sono delle donne libiche che si battono per i loro diritti di uguaglianza non ci sarà nulla che le possa fermare. È chiaro che la società libica è una società maschilista, io l'ho scritto nel mio libro, non voglio fare pubblicità gratuita al mio libro, ma perché no, la domanda è venuta spontanea. La società libica è una società maschilista, la società islamica in generale è una società che discrimina la donna anche su alcuni diritti fondamentali, come per esempio l'eredità, la donna prende la metà dell'uomo e così via, ma soprattutto per quanto riguarda il diritto al lavoro, il diritto a uscire liberamente. Quindi questa separazione tra il maschile e il femminile nella società libica, che è netta, che è molto penetrante nella realtà sociale, non sarà facile cambiarla con solo un diktat o con una legge, bisogna affermarla nei diritti quotidiani con la lotta delle donne. E io sono fiducioso perché sono in contatto con moltissime donne libiche che si battono per i loro diritti e non hanno assolutamente voglia di retrocedere sui diritti che sono stati già conquistati. Per un esempio molto semplice, quando c'è stato 10 secondi perché la borsa incombe, Farid. Sì, quello scivolone di Jibril, di Jalil, subito dopo la liberazione della Libia, ha detto: cancelleremo la legge che vieta la poligamia. E ci sono state 10.000 donne a Bengasi per dirgli no. Non si va indietro. Quindi, insomma, dici, le donne sono lì pronte a combattere per i loro diritti, c'è già un anticorpo, diciamo, dentro, esatto, a possibili derive. Grazie a Farid Adeli per essere stato con noi. Buona giornata, buon lavoro, l'informazione finanziaria, poi di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano. Nessun luogo è lontano. E siamo partiti dalla Libia, gentili ascoltatori, perché l'Assemblea Nazionale ha da poche ore eletto Mohamed Magariaf come nuovo presidente e abbiamo cercato di capire con Farid Adeli quali saranno i possibili sviluppi. Toccare la questione femminile, ho visto che ha solleticato un po' i polpastrelli anche degli ascoltatori che hanno digitato altri messaggi, me ne leggo uno fra gli altri. Roberto da Milano che dice: vabbè, il vostro ospite si arrampica sui vetri, le donne nei paesi islamici non contano nulla, servono solo a far figli, altro che uguaglianza. Ma mi sembra che però Farid abbia molto bene messo in luce quelli che sono i dovuti distinguo nel mondo islamico e ha portato anche dei numeri, ad esempio sulla presenza femminile nell'assemblea, nel parlamento libico. Dobbiamo cambiare decisamente pagina, torniamo in Europa e andiamo in Spagna. La policía española investiga la identidad de los tres presuntos miembros de Al Qaeda que detuvo el jueves. It's being called one of the biggest operations against Al Qaeda in Spain. Officials in that country have arrested three suspected terrorists armed with explosives. La Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía ha detenido hasta el momento a tres personas. Puedo afirmar que hay indicios claros de que estas personas, como les he dicho, podrían planear un atentado en España. Due ceceni, un turco arrestati ormai quasi una settimana fa, ma i particolari dell'operazione della polizia spagnola sono stati resi noti solo ieri, l'altro ieri. Un commando, appunto, due ceceni, un ingegnere turco, il turco avrebbe parlato e insomma Al-Qaeda stava progettando un attacco a Gibilterra, proprio mentre a Londra, nella capitale britannica, sono in corso le Olimpiadi, una cellula qaedista stava pensando, da quanto risulta dalle indagini, dalle dichiarazioni degli inquirenti spagnoli, un attacco invece nella piccola rocca di Gibilterra. Cerchiamo di capirne di più e di fare il punto su quello che è il pericolo qaedista in Europa. Buongiorno ad Andrea Nativi, direttore della rivista italiana Difesa. Andrea, buongiorno a voi. Allora, innanzitutto, come dire, un commento telegrafico su questo plot, perché insomma sembra una spy story. Allora, due ceceni, un turco, il turco faceva da basista, i due ceceni addestrati in Pakistan, corsi di parapendio, un piccolo velivolo radiocomandato, quindi un aeroplanino che poteva levarsi in volo, avevano già fatto delle prove sganciando, pare, dei sacchettini di sabbia e quindi insomma una specie di, ci si passa il termine, ma è così che ad esempio la stampa di ieri definiva questo possibile attacco, un mini 11 settembre a Gibilterra. È molto mini, per fortuna, e comunque con grossi problemi tecnici da risolvere. Non che non si possa fare, si può fare ed è uno scenario che l'intelligence ha già valutato, i servizi di sicurezza, tant'è vero che si prendono precauzioni soprattutto in occasione dei grandi eventi. Tuttavia, passare dal dire al fare ce ne vuole, ci vuole altro che qualche esperimento, soprattutto se si vuole operare all'interno comunque di un centro abitato, grande o piccolo che sia, controllare il velivolo, farlo arrivare al punto giusto, comandare lo sgancio, che tutto avvenga, avere un ordigno che può esplodere e che può essere significativamente letale, non è proprio così banale. Ecco, e poi c'è l'aspetto, se vogliamo, sia giudiziario che politico di questi tre arresti. Era un po' che non si beccavano con le mani nel sacco, o perlomeno insomma sull'esplosivo, esponenti d'Al-Qaeda in Europa. Abbiamo chiesto un commento su questi tre apparentemente eclatanti arresti a Raffaello Pantucci dell'International Center of Study, of Radicalization, il Centro Internazionale per gli Studi sul Radicalismo. Questi arresti in Spagna sono fra quelli più importanti che sono successi quest'anno riguardo all'Al-Qaeda in Europa. Questi tre erano un gruppo molto serio che avevano connessioni con gruppi, campi di formazione in Pakistan e Afghanistan, avevano ottenuto esplosivi, avevano cominciato a guardare dei possibili obiettivi e da quello che ho capito dai servizi spagnoli è un gruppo molto serio. Questo è probabilmente il gruppo più serio che sia arrivato quest'anno, diretto da Afghanistan e Pakistan. Poco prima delle Olimpiadi abbiamo avuto dei arresti in Inghilterra che avevano connessione a campi di formazione in Afghanistan e Pakistan, ma non è molto chiaro che erano stati diretti a fare qualcosa. Poi loro non avevano ottenuto esplosivi ed altre cose. Cioè, tutto questo da dire che al momento la minaccia di Al-Qaeda in Europa è una cosa che è ancora, che esiste ancora. Non stiamo parlando del livello dei primi anni 2000, dove avevamo centinaia di ragazzi che stavano andando avanti e indietro a questi campi di formazione, che stavano tornando con idea di fare attacchi, però adesso stiamo parlando di questi gruppi più piccoli che continuano ad andare lì, continuano un po' di formazione e poi di tornare indietro, alcuni di loro con idea di magari fare un attacco. Sì, perché per le cellule qaediste l'occasione delle Olimpiadi è in qualche modo insomma un'occasione ghiotta, golosa, perché ci sono i grandi riflettori internazionali, c'è un grandissimo afflusso di pubblico e quindi insomma da lì sicuramente come dire, i cinque cerchi sono per loro un'occasione, però allo stesso tempo stiamo capendo anche grazie a Andrea Nativi che l'intelligence è preparata anche a questi attacchi, come dire, che per i neofiti dell'argomento sembrano quasi da fantascienza. Andrea, su questo punto il fatto di, come dire, attaccare Gibilterra mi sembra un obiettivo di secondo ordine, no? Quando il terrorismo cerca il colpo eclatante, cerca i grandi riflettori accesi, andare a colpire Gibilterra mi sembra veramente, come dire, una terza scelta, mi si passi il termine. Beh, direi che andare a colpire Londra durante le Olimpiadi era abbastanza complicato, certo non per una cellula di questo tipo, richiedeva qualcosa di più, molto di più, anche perché gli inglesi si sono preparati al peggio e quindi hanno messo in campo un dispositivo senza precedenti. Gibilterra è sempre Gran Bretagna, ha un valore simbolico ed è più aggredibile. Poi qui c'è anche la fantasia di aver pensato addirittura di utilizzare un velivolo bombardiere. Devo dire che quando si passano in rassegna i potenziali veicoli per condurre un attacco, si contempla sia l'aeromodello, anche in versione kamikaze eventualmente, oppure anche piccoli rudimentali velivoli senza pilota. Siccome si possono acquistare abbastanza facilmente, non hanno un costo elevatissimo, per imparare a manovrarli ci si arrangia rapidamente. Beh, rispetto a altre soluzioni è spettacolare, questo conta molto, perché non pensate che Al-Qaeda non ci faccia conto, ci fa conto come, che se riesce a organizzare qualcosa di innovativo che cattura l'attenzione dei media, ovviamente ha raggiunto uno dei suoi obiettivi, colpire durante le Olimpiadi un bersaglio britannico, fantastico. Però Gibilterra non era così facile, poi partendo dalla Spagna ancora meno, certo. Per fortuna. Una delle armi formidabili che hanno a disposizione queste cellule sono i passaporti. Ascoltate ancora Raffaello Pantucci. Per questi gruppi, che siano in Afghanistan, Pakistan, che siano in Yemen, che siano in Africa, se vogliono condurre un attacco in Europa, l'arrivo di una persona con un passaporto straniero è una cosa utilissima, diciamo, perché per loro a questo punto, se possono convincere questa persona, o se questa persona è radicalizzata al punto che è pronta e disposta a condurre un attacco, è possibile che questa persona avrà più capacità e più facilità per rientrare in Europa o negli Stati Uniti per condurre un attacco. Per gente che viene da questi paesi, che magari non ha passaporto europeo, devono andare a trovare il visto, andando a trovare il visto devono immediatamente mettersi in allerta o nel mirino dei servizi segreti europei, che stanno guardando con attenzione queste cose. Allora una persona che arriva con un passaporto europeo per loro è una cosa utilissima, è un'arma, insomma, che gli permette di avere la possibilità di condurre un attacco in Europa o negli Stati Uniti. Al momento le quattro aree che sono di preoccupazione abbastanza alta sarebbero l'Afghanistan, il Pakistan rimane una zona dove c'è un livello di gente che sta andando lì, stanno o combattendo o stanno andando in campi di addestramento, e quello continua. Però lì, sai, per stranieri che vogliono viaggiare adesso non è più come una volta, è molto più complicato arrivarci, e poi c'è il pericolo di questi drones americani che stanno ammazzando gente lì con una regolarità molto alta. Invece adesso i campi più magari più pericolosi sono quelli nel Yemen, dove abbiamo un gruppo nell'Al-Qaeda nel Penisola Arabo che hanno controllo di pezzi di territorio dove nessun altro può disturbarli, e lì possono fare campi di addestramento dove possono preparare la gente, dove alcuni di questi stranieri possono arrivare lì, possono essere persuasi di tornare indietro e condurre un attacco. E il terzo sarebbe la Somalia, dove abbiamo un gruppo, l'Al-Shabaab, che sta combattendo una guerra, sta facendo parte di una guerra civile, però di recente si sono collegati con il gruppo Al-Qaeda. Loro invece però avevano dei campi, però adesso sono sotto una pressione molto dura dai governi nei paesi intorno e anche dal transitional, dal TFG, il governo somalo. Allora lì magari un tempo era più pericoloso, adesso però un po' meno. Però adesso c'è la nuova storia che sembra che ci siano stranieri che stanno andando a combattere nella Siria. Questi ragazzi allora stanno andando lì, hanno prima esperienze di combattere in guerra, imparano altre cose, chissà cosa andranno a fare dopo. E come avete sentito dalle parole di Raffaello Pantucci del Centro Internazionale di Studi sul Radicalismo, ci sono questi tre campi fondamentali, questi tre fronti fondamentali. Andrea Nativi, Afghanistan, Pakistan, Yemen e Somalia, insomma, in fin dei conti lì ci si addestra, da lì si parte, si torna in Europa, soprattutto se si è ad esempio cittadini britannici e quindi si ha un passaporto che permette di tornare in Europa liberamente. Sì, poi l'ideale sarebbe addirittura il convertito locale, ovvero sia qualcuno che è bianco caucasico, non ha alcun legame familiare, si converte alla religione islamica, diventa un fanatico e allora è il soggetto pregiato, perché non è sotto controllo di per sé, se anche si va ad affiliare tiene un profilo basso, difficile da averlo nei database e quello diventa veramente micidiale. Chiaro, non ha l'addestramento militare, non ha l'addestramento sul campo, però di questi per fortuna, come diceva l'analista, ce ne sono un po' meno, almeno di quelli particolarmente esperti, anche perché sia in Pakistan sia in Yemen non è che l'aria sia proprio molto salutare, basta leggere quotidianamente il numero di guerriglieri islamici che viene eliminato dai drones americani, è elevatissimo, tutti i giorni ce n'è da mezza dozzina a una decina, quindi hanno subito perdite molto elevate. Quindi questo è un po' il doppio fronte che le intelligence europee non solo devono combattere, da un lato investigazione tutto campo in Europa, in Germania ad esempio, dove c'è un profondo dibattito perché c'è un uomo che è stato identificato come potenziale terrorista, si dice sia stata addirittura la guardia del corpo di Osama Bin Laden, eppure la legge tedesca non permette alla polizia tedesca di, come dire, di fermarlo, se non un obbligo di firma. Per 8 anni è stato tenuto sotto osservazione, però insomma c'è un dibattito in Germania perché si vorrebbe più poteri per andare a colpire quelli che sono i potenziali terroristi. Grazie Andrea Nativi, direttore della Rivista Italiana Difesa, per essere stato con noi. Buona giornata, buon lavoro. Grazie a voi. E noi adesso sentiamo l'informazione sul traffico e poi di nuovo cambieremo pagina. Nessun luogo è lontano. Oggi puntata ricca di temi e di spunti tratti dalla grande attualità internazionale. Vi avevo promesso di voltare pagina, lo facciamo, cambiamo anche continente, andiamo a Santiago del Cile. Los funcionarios arremetieron con cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersar a la multitud. Aquí se nos han cerrado las puertas al diálogo, aquí no hay disposición por parte de ellos a poder llegar a una solución pronta al conflicto. En ese mismo sentido, hoy, por ejemplo, la reforma tributaria que se pretende aprobar termina por sepultar la educación pública. Ellos no pueden eximirse de la responsabilidad que tienen en estas convocatorias ilegales. Andiamo in Cile perché? Perché nei giorni scorsi il movimento studentesco è tornato in piazza, lo ha fatto con una certa violenza, lo aveva già fatto, chi ci segue se lo ricorda perché ne parlammo proprio ad agosto dell'anno scorso, in qualche modo agosto si fa incandescente anche per la politica cilena. Nei giorni scorsi bus bruciati, polizia presa d'assalto, cariche della polizia, proiettili di plastica, cariche, cannoni d'acqua per disperdere gli studenti. L'accusa fatta agli studenti e al governo di Piñera è di non destinare sufficienti fondi all'educazione. C'è un nuovo leader degli studenti, Gabriel Boric, che è presidente della Federazione degli Studenti Universitari Cileni, che lamenta la sordità del governo di fronte a ogni richiesta degli studenti, i quali insomma hanno deciso per manifestazioni sicuramente più violente. Ci aiuta a capirne di più Paolo Manzo, giornalista freelance e corrispondente per l'America Latina della Stampa. Paolo, buongiorno, benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a tutti voi. Paolo, allora aiutaci a capire meglio. Intanto c'è questa, come dire, regolarità periodica per cui gli studenti a muso duro scendono in piazza e si confrontano con un governo che sembra sordo rispetto alle loro richieste. Ma sì, diciamo che oramai la questione delle proteste studentesche in Cile è diventata una questione più annosa per il governo di centrodestra di Sebastián Piñera. Oramai è più di un anno, appunto tu ricordavi il collegamento che facemmo lo scorso anno, Io mi ricordo che c'era in linea anche un diplomatico italiano da Santiago e quale sì. sostenne che secondo lui sarebbero durate poco. Purtroppo sì. un anno dopo siamo di nuovo qua a parlarne, perché appunto è passato più di un anno, ma sembra in realtà essere passata meno di una settimana. Vabbè, sappiamo anche, Paolo, che le dichiarazioni dei diplomatici sono di per sé diplomatiche, non so come dire. Quindi. Certo. No, ma non era un'accusa nei confronti del nostro, perché anch'io speravo che durasse il breve lasso di una settimana o due. Ecco, ma battute purtroppo... a parte, adesso no, ci siamo lasciati no, andare. Certo. Che cosa sta purtroppo... dietro a questa? È veramente, chiedono semplicemente più fondi allo studio e da qui si scatena questa violenza, o c'è qualcosa dietro, qualcosa sotto? Ma diciamo che di base, ma le verità non sono mai uniche, perché altrimenti sarebbe troppo facile fare l'analisi di quello che succede nel mondo. Diciamo che di base c'è una legge per quanto concerne la riduzione, l'istruzione pubblica, che risale alla dittatura di Augusto Pinochet Ugarte. Questo è il primo punto, per cui Pinochet ridusse fortissimamente la partecipazione dell'Stato in tutto il settore educativo, sia elementari, medie, superiori, università. Quindi gli studenti chiedono oramai da 15 mesi un nuovo modello di istruzione che sia pubblico, gratuito e di qualità, mentre invece il modello cilene instaurato da Pinochet con la sua riforma puntava fortissimamente sul settore privato, dando grande spazio anche all'istruzione privata cattolica. E questo chiedono, quindi più fondi, ma anche una riforma dell'istruzione. E fino ad oggi questo non è successo, e quindi loro continuano le loro richieste, continuano le loro marce, che purtroppo sia quella di mercoledì scorso, cioè dell'altro ieri in sostanza, sì. Che è quella del 28 giugno, autorizzata dal governo con oltre 100.000 studenti in piazza Santiago, quella di due giorni fa invece non autorizzata, è bene sottolinearlo, hanno portato a scontri, a numerosissimi arresti e per dire, l'altro ieri, tieni presente che secondo la polizia erano 5.000 dimostranti, secondo gli studenti tre volte tanto, ma non è tanto una questione numerica. Sì, solito balletto di cifre. Solito balletto di cifre che noi conosciamo bene anche in Italia. I danni comunque sono stati stimati intorno ai 850 mila dollari, cioè quasi un milione di dollari, 650 mila euro circa. Perché? Perché sono stati incendiati tre autobus della Transantiago, è stato attaccato la sede di Telefonica, l'operatore di telefonia mobile, cellulare, internet spagnolo, è stato attaccato altri commerci con tiri di pietre, e poi qui c'è stato il solito balletto, no? Sul discorso infiltrati sì, infiltrati sì. No. Gli studenti sostengono che gli autobus siano stati incendiati non da loro, anche se nelle ultime ore è stato proprio arrestato, fermato e ha confessato di aver bruciato almeno un autobus, pur non dicendosi pentito, uno degli studenti, mentre sì. invece il governo sostiene che sono stati tutti i danni fatti non da infiltrati poliziotti incappucciati, ma dagli studenti stessi. Gli studenti hanno prodotto un video in cui si vede una camionetta dei carabinieri scarica di pneumatici, che di solito sono usate appunto per le barriere negli scontri, possono anche essere usati per dare fuoco, e quindi sostenendo le loro tesi il governo ha reagito in modo indignato, sia tramite il ministro degli interni che il ministro dell'istruzione, dicendo che con la violenza non si va da nessuna parte e che se continueranno così non ci sarà nessuna possibilità di dialogo. Ecco, c'è un aspetto, Paolo, queste proteste studentesche, che salta immediatamente agli occhi, è che comunque c'è sempre un leader. L'anno scorso era Camilla Valleo, mi si perdonerà la pronuncia, che poi ottenne anche parecchi riflettori, perché anche insomma era una bella ragazza, quindi certo. Però anche quest'anno c'è Gabriel Boric, c'è questa, sì. questa, come dire, personalizzazione anche della protesta, no? Cioè, è un aspetto tipicamente latino, se vogliamo, no? Assolutamente sì, direi. Diciamo che Simone e Camilla sono due persone carismatiche. La Camilla, tanto per dirne, è stata recentemente in Messico, prima ancora in Brasile, dove appunto ha intessuto rapporti con omologhi gruppi studenteschi. E quindi sì, la personalizzazione è fondamentale, tant'è che adesso il presidente della Federazione degli Studenti, della FEC, FECH, è il Boric, ma Camilla è la vice, e proprio ieri notte il Parlamento ha votato una legge importante, una riforma tributaria che invece è criticatissima dai studenti, perché sì, dicono loro che abbiamo sentito anche poco fa la dichiarazione di una delle altre leader studentesche, e seppellirebbe qualsiasi ipotesi di riforma dell'istruzione, e lei ha fatto un intervento durissimo poco fa su questo aspetto. Quindi la personalizzazione serve proprio perché trattasi di una bella ragazza o di un ragazzo carismatico, serve per avere l'attenzione dei media nazionali ma soprattutto anche internazionali, tant'è che i movimenti, penso quello messicano che appunto ha criticato fortissimamente l'elezione in Messico del 1 luglio che avrebbe fatto vincere Nieto, che l'inizio dei movimenti in Brasile, ritorno alla Camila, hanno sicuramente appreso molti modi per comunicare sia tramite internet sia tramite i media, ma tramite proprio mettendosi la faccia, facendo parlare persone che abbiano un appeal, che abbiano un seguito, sì, non solo fisico. Cioè Camila è una bellissima ragazza, ma è una ragazza che ha una testa tanto, nel senso che è lo stesso per Gabriel, quanto riguarda il presidente. Esattamente. Grazie Paolo per averci aiutato a capire la personalizzazione ma anche la politicizzazione, scusate, del movimento studentesco cileno. Grazie, buona giornata, buon lavoro. Noi abbiamo tempo per ruotare il mappamondo. WhatsApp. Notizie dall'altro lato del mondo. E torniamo a parlare di Siria, perché secondo le indiscrezioni di un quotidiano turco, Cumhuriyet, il governo turco avrebbe un piano di intervento militare in territorio siriano nel nord a maggioranza curda per contrastare proprio la crescita di influenza del PKK. Fra le indiscrezioni vi sarebbe anche la volontà di Ankara di creare una zona cuscinetto lungo la frontiera, addirittura di sconfinare 20 km all'interno del territorio siriano per creare questa zona di sicurezza. E sempre parlando di Siria, la Gran Bretagna, notizia proprio di pochi minuti fa, lo ha annunciato il ministro degli esteri William Hague, la Gran Bretagna aumenterà di 5 milioni di sterline gli aiuti ai ribelli in Siria. Gli aiuti serviranno ad acquistare attrezzature per telecomunicazioni, scorte mediche, non armi, viene precisato, e saranno dirette la maggior parte al maggior gruppo ribelle, che è appunto il Free Syrian Army. Il popolo siriano non può aspettare all'infinito, ha detto Hague in una conferenza stampa di un'oretta fa. E poi lo scacchiere iraniano, perché è strettamente legato a quello siriano, ancora indiscrezioni di quotidiani, stavolta in Israele, il quotidiano Yediot Ahronot, poi metteremo su Facebook il link a questo articolo che segnala questa indiscrezione. Il premier israeliano Netanyahu e il ministro della difesa Ehud Barak sono determinati ad attaccare le infrastrutture atomiche in Iran questo autunno, cioè prima delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Questa è l'indiscrezione del quotidiano israeliano. E l'altro grosso quotidiano, Haaretz, riporta una dichiarazione di un dirigente israeliano che preferisce rimanere anonimo e dice: la spada puntata ora al nostro collo è più affilata della spada che avevamo al collo alla vigilia della guerra dei sei giorni nel 1967. Titoli di coda. Un grazie quindi a Massimo Brugnone, Mire Lucchetti in redazione, Fabio Cantadori che anche quest'oggi ha dato musica e ritmo alla puntata. Io vi ricordo le repliche 6:30 ogni mattina da lunedì al venerdì, domani invece sabato ore 9:10 del mattino, il meglio della settimana di Nessun Luogo Lontano. Ci potete raggiungere e commentare su Facebook Nessun Luogo Lontano - Radio 24. Non mi resta che augurarvi un buon weekend e un saluto da Giampaolo Musumeci.